benvenuti ad un nuovo appuntamento con Indie Radio, il programma di informazione indipendente curato dal collettivo Calabria Indie Media. In questo numero ci occuperemo del Notav, ma anche della fabbrica dei veleni di Praia a Mare, ovvero della fabbrica Marlane. Ricordo che chiunque volesse contattarci e quindi collaborare con il programma può farlo attraverso il nostro sito, che è, lo ricordo, www.calabria.indimedia.org. Buon ascolto di Indie Radio, che, lo ricordo, la potete trovare solo su Transizione di Fase, la web radio indipendente. Al caso Marlane, venerdì 24 giugno è stato pubblicato su Calabria Indie Media un comunicato stampa di cui ora diamo lettura. Ancora un rinvio nel processo Marlane, prossima udienza il 7 e il 14 ottobre. Ancora uno schiaffo ai tanti morti per lavoro. Questa è l'interrogazione parlamentare che l'ex operaio della Thyssen, Antonio Boccuzzi, proprio nella giornata di ieri aveva presentato al ministro di Grazia e Giustizia, sollecitato dai movimenti ambientalisti calabresi. Lo scorso novembre il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Paola ha rinviato a giudizio i 13 imputati del processo Marlane. Omicidio plurimo aggravato, questa l'accusa. La prima udienza del processo si sarebbe dovuta tenere il 19 aprile 2011. Secondo l'accusa, gli indagati avrebbero omesso il controllo della sicurezza nell'ex fabbrica della Marzotto. Alcuni di loro sono chiamati a rispondere anche di omicidio colposo. Non avrebbero fornito ai lavoratori dispositivi di protezione e, a vario titolo, avrebbero omesso di vigilare sull'utilizzo degli stessi da parte dei dipendenti. Gli indagati devono rispondere inoltre di disastro ambientale all'interno e all'esterno dell'azienda. Numerosi nel corso della vicenda giudiziaria sono stati i rinvii causati dall'assenza dei difensori degli imputati, impedimenti di avvocati parlamentari che hanno traslato nel tempo le udienze. Nel corso dell'udienza preliminare il pubblico ministero Antonella Lauri ha sostenuto che le patologie che hanno provocato i decessi sono da collegare al mancato rispetto delle norme di sicurezza nell'ex stabilimento di Praia a Mare. Sono in 107 tra operai ammalati e familiari di operai deceduti a causa delle estrazioni tossiche respirate in fabbriche, costituitisi parte civile in questo processo. Diversi rinvii da ultimo l'udienza prevista per il 19 aprile di questo anno, rinviata al 24 giugno. Rinvio dovuto a un difetto nella notifica, ovvero la mancanza nel fascicolo della notifica, inviata a 5 avvocati della difesa, di 4 pagine. Questo nuovo differimento giunge del tutto inatteso, anche alla luce di un'eventuale scadenza dei termini di prescrizione dei vari reati contestati. Ieri, 24 giugno, dalle ore 9, ancora un sit-in sotto il Tribunale di Paola in appoggio agli operai e ai familiari delle vittime della Marlane, presenti al sit-in. Sì, COBAS, Coordinamento Calabria, Osservatorio Nazionale Amianto, Rete Difesa Territorio Franconistico, CSUA Rialzo Cosenza, Forum Ambientalista Calabria, Associazione Culturale Scatacatascia, UCS Francavilla, Movimento Ambientalista del Tirreno, ACSSA di Montalto, LSA Assalto Unical, il Comitato Beni Comuni del Savuto, l'ARCI di Paola. Il sit-in non solo per dimostrare solidarietà e per sollecitare la verità, ma anche per impedire che si giochi sulla pelle delle vittime con rinvii e con cavilli burocratici. Ma siano tranquilli, resisteremo un minuto in più dei padroni. ed apriamo ora la nostra ampia pagina dedicata al Notav, ricordandovi che 3 luglio, domenica, vi sarà proprio in Val di Susa una grande manifestazione nazionale per dire no alla costruzione di questa alta velocità che va a deturpare gli ecosistemi di una vallata, va a distruggere la nostra democrazia e va in fondo a trasferire dei soldi dal pubblico al privato. Ma di questo e di altro ancora continueremo a parlarvi nei prossimi minuti. Continuate dunque ad ascoltare Indie Radio su Transizione di Fase, la web radio indipendente. E dal sito Indie Media Calabria leggiamo un articolo che si occupa appunto della questione Notav. Il popolo Notav riceve le attenzioni militari dello Stato italiano, questo è il titolo della feature pubblicata martedì 28 giugno su Calabria Indie Media. Nella mattina del 27 giugno al presidio Notav della Maddalena si assiste ad autentiche scene di guerra civile. Le forze dell'ordine contro i manifestanti usano una quantità impressionante di lacrimogeni, costringono così a fughe fra i monti e fermano un pacifista che si era diretto con il suo solo corpo disarmato contro i mezzi dello Stato che vuole imporre una scelta calata dall'alto. La meschinità di questa violenza di Stato si manifesta proprio quando è aumentata l'attenzione per la difesa dei beni comuni e la Val di Susa, con la sua battaglia per la difesa del territorio, ha da sempre rappresentato un importante laboratorio politico di resistenza e lotta per la difesa del territorio e della salute pubblica che si vogliono sacrificare in nome di profitti privati e sperperi di denaro pubblico. Le ferrovie dello Stato non sono nuove a episodi che le vedono impegnate a realizzare utili a scapito di sicurezza, equità e democrazia. Il progetto TAV, infatti, altro non è che un trasferimento di denaro pubblico ad alcuni imprenditori italiani riuniti sotto la sigla Infregilo, che nasconde Ligresti, Gavio, Benetton e prima ancora la Fiat e tanti altri. I valsusini non sono delle persone che dipendono solo il loro territorio, ma sono consapevoli dello sperpero di denaro pubblico e della devastazione territoriale che il TAV ha portato in ogni cantiere aperto. L'indignazione per questa azione di forza ha generato in tutta Italia, da nord a sud, presidi e manifestazioni di solidarietà. Seguono poi alcuni link per ottenere maggiori informazioni ed infine alcune informazioni vengono date in relazione alla solidarietà che anche dalla Calabria si fa sentire per il popolo Notav. Quindi parliamo di quello che ha accolto a Reggio con un presidio, ma anche del comunicatore per difesa territorio Franco Nistico e ancora un altro comunicato che è stato volantinato alla Lamezia Terme nelle scorse giornate. giugno scorso è stato pubblicato sul sito Notav un appello alle istituzioni e alla politica, che reca numerose firme, di cui invitiamo a prendere visione proprio sul sito di Notav. Il 26 giugno 2011 viene dunque pubblicato questo comunicato. I referendum del 12 e 13 giugno hanno cambiato lo scenario politico, ponendo al centro dell'attenzione pubblica i beni comuni e il bene comune. Di fronte a noi, ai milioni di donne e uomini che hanno contribuito al successo referendario, sta ora l'obiettivo di costruire un'agenda politica in grado di mettere in campo un nuovo progetto di socialità, di sviluppo e di partecipazione democratica. In questa prospettiva c'è oggi un banco di prova non eludibile: lo scontro tra istituzioni e popolazione locale sull'inizio dei lavori di costruzione in Val di Susa di un funicolo esplorativo in funzione preparatoria del tunnel di 54 km per la progettata linea ferroviaria ad alta capacità Torino-Lione. Per superare la situazione di stallo determinata da tale scontro si prospetta un intervento di polizia o addirittura militare che rimuova le resistenze in atto. Sarebbe una soluzione sbagliata e controproducente. Ci possono essere opinioni diverse sulla necessità di potenziare il trasporto ferroviario nell'area e sulle relative modalità, ma una cosa è certa: la costruzione della linea ad alta capacità Torino-Lione e delle opere ad essa funzionali non è una questione solo locale, e l'opposizione della popolazione interessata non è un semplice problema di ordine pubblico. Si tratta, al contrario, di questioni fondamentali che riguardano il nostro modello di sviluppo e la partecipazione democratica ai processi decisionali. Per questo, unendoci ai diversi appelli che si moltiplicano nel Paese, chiediamo alla politica e alle istituzioni un gesto di razionalità: si sospenda l'inizio dei lavori e si apra un ampio confronto nazionale, fino a oggi eluso, su opportunità, praticabilità e costi dell'opera e sulle eventuali alternative. In un momento di così grave crisi economica e di rinnovata attenzione ai beni comuni, riesaminare senza preconcetti decisioni assunte 20 anni fa è segno non di debolezza ma di responsabilità e di intelligenza politica. Fortunatamente siamo tutti al corrente delle ultime notizie che hanno visto appunto questi interventi di natura militare in Val di Susa contro la popolazione Notav, che è stata investita da pesanti assalti veri e propri di natura militare. Dal sito notav.info leggiamo la notizia relativa al primo morto dell'operazione Talpa, un blindato dei carabinieri in veste pensionata. Ieri pomeriggio 29 giugno un mezzo blindato ad antisommossa dei carabinieri diretta a Chimonte ha investito e ucciso una pensionata venaria, Anna Reccia, che aveva 65 anni. Ci sentiamo di sottolineare da queste pagine quanto accaduto. È un'operazione militare a tutti gli effetti per la quantità di numeri e mezzi impiegati e nelle operazioni militari, si sa, ci stanno anche i morti. Dalle prime notizie l'autista dichiara di essersi fermato a fare rifornimento e poi essere ripartito per fermarsi dopo decine di metri al semaforo. Solo lì dice di essersi accorto di un corpo accasciato a terra dagli specchi retrovisori. Questi mezzi corazzati usati a Chimonte sono mezzi da guerra dati in mano a dei criminali. Come a Genova, ancora una volta l'arroganza e la guerra uccidono sotto gli pneumatici dei mezzi dei carabinieri. Fino a quando ancora? Questa morte è responsabilità della lobby Sittag. Il media mainstream dirà che questa è una forzatura strumentale dei Notav. Non è così. In questi giorni decine e decine di mezzi incolonnati fanno su e giù per la valle. La realizzazione dell'opera prevede centinaia di tir, oltre ai mezzi delle forze dell'ordine che fanno su e giù per decenni. Perché i giornali non scrivono che il mezzo che ha investito l'anziana signora era diretto al cantiere della Maddalena? Quando diciamo che il TAV è un'opera dannosa, nociva, necrogena, intendiamo proprio questo, un costo sociale, umano e ambientale senza misura con i presunti vantaggi. Alla famiglia il nostro pensiero. Nächtens war ich trunken in einem seltenen Loch, bin gleich darin versunken, weil Land trank ich wohl immer noch, weil Land trank ich wohl immer noch. Beide Arme kraftvoll stehen mich aus des Loches Grund. Wollten trotzig, Held nicht fallen, sehen lustigen Becher in den Grund. Lustigen Becher in den Grund. E anche il Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua, con un comunicato che sta girando in rete su diverse mailing e vari siti e che noi leggiamo da Calabria Indie Media, si esprime su quanto accade in Val di Susa con questo comunicato di cui ora abbiamo lettura. Il Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua esprime tutta la propria solidarietà al popolo della Val di Susa che in queste ore è sottoposto ad un violentissimo attacco militare. La TAV in Val di Susa è l'ennesima grande opera inutile, antieconomica e socialmente inaccettabile. La resistenza che le comunità locali stanno portando avanti da anni è una lotta per la democrazia e la partecipazione, per non vedere devastato il proprio territorio, per contrastare la logica del profitto che pervade questo mega progetto. Il popolo dell'acqua segue con attenzione l'evolversi della situazione ed è a fianco del popolo Notav. Il Movimento per l'Acqua invita tutti gli attivisti a mobilitarsi nelle tante iniziative che saranno organizzate nelle varie città per dimostrare che i Notav non sono soli e la loro resistenza è la nostra resistenza. Il comunicato, come dicevamo, porta la firma del Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua ed effettivamente in questi giorni si sono susseguite tutta una serie di manifestazioni in favore del popolo Notav da nord a sud dell'Italia. formlos Gletscher. Aus der die Löwen Sky seinen letzten Reißfunken aussaugen, fliegen angestachelt, taumelt besoffen davon. Prima della assalto militare da parte del governo italiano rispetto al popolo Notav, su Calabria in media venerdì 24 giugno veniva pubblicato un comunicato a firma di Rete Difesa Territorio Franco-Istico relativo alle questioni Notav. Gli ultimi avvenimenti repressivi avvenuti in Val di Susa ci danno la misura di come il potere, incapace di arrendersi di fronte alla forza della resistenza in Val di Susa, metta in campo l'ennesimo ridicolo tentativo per bloccare questo movimento che non ha nessuna voglia di desistere. Quello stesso potere che ha cercato di scippare la possibilità con i referendum di avere una speranza di modificare il regime della casta italiota, che ha visto le energie migliori spendersi per un obiettivo comune e vincere. Nel mentre le piazze festeggiavano, l'arroganza del potere statale cercava la sua rivincita. 65 avvisi di garanzia, perquisizioni in casa dei compagni e nei centri sociali, più che essere una prova di forza, rappresenta la paura di chi sta perdendo, di chi vuole imporre sulla valle il proprio volere, non essendo riusciti a farlo in nessun altro modo. Tutto l'arco istituzionale, Stato, province, regioni né comuni sono riusciti a piegare quella comunità resistente che con rabbia e determinazione ha ripreso il controllo sul proprio territorio e sul proprio destino. L'esperienza della lotta NOTAV è per noi un punto di riferimento politico. La determinazione con la quale la popolazione sta difendendo il proprio territorio con degna rabbia è la stessa che caratterizza i movimenti in difesa del territorio e di tutti i beni comuni della nostra terra. La lotta NOTAV non è quindi una semplice difesa territoriale, ma l'esempio stesso di una comunità ribelle che si riappropria della capacità di decidere su di sé e per sé, in antitesi alle decisioni prese dall'alto in nome degli interessi economico-finanziari propri delle lobby affaristico-politiche. Per questi motivi la lotta NOTAV è anche la nostra lotta, è la lotta contro la costituzione del ponte sullo stretto, contro la privatizzazione dei beni comuni, contro la gestione affaristica e mafiosa del circolo dei rifiuti, che crea ripetutamente emergenze in tutto il mezzogiorno, contro l'aggressione capitalistica del territorio. Per questo reprimere la valle è come reprimere Terzigno, Chiaiano, Pianopoli e tutti quei comitati che quotidianamente si battono per la difesa del proprio territorio. È un tentativo di fermare non solo il movimento NOTAV, ma tutte quelle realtà impegnate in lotte contro la devastazione e lo sfruttamento ambientale. La rete difesa del territorio franco-istico è nata sull'onda dello scandalo delle navi a perdere, da cui decine di realtà calabresi, comitati, associazioni, movimenti si sono impegnate nelle mille vertenze a difesa del territorio e dell'ambiente. Il sito di riferimento è www.difendiamolacalabria.org, ma siamo anche su Facebook. Il vostro movimento parla al nostro territorio, così come pure il nostro territorio vuole parlare al vostro movimento. Siamo già stati in valle e invitiamo tutti a farlo per dare solidarietà attiva, per difendere le sacrosante barricate. La firma è appunto quella di Rete Difesa del Territorio Franco-Istico. dandy. Der Todesmann Dandy, der Todesmann Dandy, der Todesmann Dandy. Indie Radio finisce qui per questa sera, grazie per averci ascoltato su Transizione di Fase. Vi ricordo i nostri orari, ogni venerdì alle 21 e in replica sabato alle 12. Continuate ad ascoltare Transizione di Fase, continuate a seguire Calabria Indie Media. This was made to end our parties.